questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Sox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Se non ci sa fare con i tacchi, non te li mette in bedina. Roberto Bettega, 21 anni, un ragazzo in gamba. Bettega, lei ha molti meriti, quindi giustamente aveva meritato il titolo di campione della domenica sportiva. In definitiva, c'è stato un po' un colpo di fortuna da parte sua, quel colpo di tacco piuttosto spettacolare che forse ha influito sui giurati. Sì. Ecco, vorrei dire, è stata fortuna oppure no? Indubbiamente avrà influito. Però fortuna, la dose di fortuna ci vuole in tutte le cose. Comunque un'azione simile, un gol simile l'avevo già fatto in un allenamento a Coverciano dell'Under 23, un'azione identica proprio con Anastasi. Mi è andato via sulla destra, ha crossato e io feci gol così. Mi dispiace, mi ha lanciato una scarpa col tacco e poi abbiamo fatto pace. Guarin che la mette forte, tesa di tacco. Che tornavo da te senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole. Per te che sei lunatica, niente teorie con te, soltanto pratica. Identico, caro Pier, assolutamente identico, o no? Come va? Benissimo, benissimo, va benissimo. È stato un derby brutto, io te l'ho detto, tu hai fatto bene a rimanere in campagna ieri sera. Ma io l'ho visto in campagna. Sì, ma è inguardabile. Ma il derby è sempre il derby, io sono... Insomma, è sempre il derby di Milano, San Siro, ti puoi togliere tutto, hanno tolto pure gli striscioni, le coreografie, eccetera, però alla fine è sempre... Il miedo è scenico, no? La paura scenica di un teatro meraviglioso, insomma... Basta, sono troppo retorico, mi faccio schifo da solo. Sì, derby orrendo, sono d'accordo. Potenza tecnica, derby in tono minore, però alla fine a me è piaciuto, insomma, molto equilibrato. Alla fine ha vinto l'Inter, con qualche polemica che c'era stata prima, il rigore, tutto il resto, ma insomma è una partita che acuisce la crisi del Milan e secondo me rende oggi la situazione di Allegri molto molto complicata. Poi abbiamo tempo per parlarne. 800 24 00 24. Io però ho iniziato chiedendoti se secondo te era identico o no a quell'altro colpo di tacco. Secondo me sì. Abbiamo sentito anche la voce di un giovanissimo Roberto Bettega, che saluto. Buon pomeriggio Roberto. Ero io il giovanissimo? Sì, c'era una voce giovanissima. Adesso è una voce diversa, vabbè, pazienza. Però quella sera la domenica sportiva premiò il colpo di tacco di Roberto Bettega, 31 ottobre 1971, Milan-Juventus 1-4. Io credo, Roberto, fatto quel colpo di tacco dalla stessa zolla di Palacio, o forse è questione di centimetri? Forse io ero leggermente più un metro lontano dalla porta, ecco, forse, però... Non credo che conti molto quello. No, assolutamente. Tra l'altro io ho ritrovato anche un altro colpo di tacco celebre di Bettega preparando il Mondiale del 78 in amichevole contro il Deportivo La Corugna. Secondo me è anche più bello di quello di San Siro, che però è rimasto nella storia. Cos'è il colpo di tacco, Bettega? Un momento di follia, un colpo di istinto, un gesto preparato? Cos'è? Non è assolutamente un gesto preparato, è figlio di una lucidità mentale, almeno io adesso mi riferisco al mio, nel senso che avevo fatto gol forse 5 minuti prima di testa, vincevamo 1-0, quindi quando è arrivata questa palla io non ho pensato possono fischiarmi in 80.000 se faccio questa cosa, ho pensato che fosse l'unica maniera forse per... senza toccarla, senza doverla controllare tutto per provare a fare gol. Ecco, tutto è stato qua, non è troppa incoscienza, ma solo serenità e lucidità di pensiero, punto e basta. Pier, ci vuole anche una certa dose di coraggio a fare quello che ha fatto Palacio. Come le dico, nasce dal gol anche fatto prima, quindi una certa qual serenità, mi è arrivata questa palla, perché poi... Dal cross di Anastasi all'arrivo della palla, se voi pensate, passa forse una frazione di secondo, però credo di aver pensato, se la stoppo, perché ero un po' avanti sul primo palo, se la stoppo il difensore mi salta addosso, se la stoppo per tirare di destra sono fuori dal palo. E, insomma, non hai molto tempo in quella frazione da quando parte la palla e quindi vedi come ti arriva. Ero sul passo, la palla era molto docile e l'ho accompagnata, ma la cosa più bella è che penso erano 42 anni fa, dovevo depositare il brevetto di questo. Sai qual è la cosa più bella? Che Roberto 42 anni dopo si ricorda perfettamente tutti i pensieri. Questo per capire che cos'è il calcio, no? Che cos'è soprattutto per chi lo vive. Ma lo stesso discorso ovviamente potrebbe valere per i tifosi che quel gol hanno visto, l'hanno subito o hanno gioito o si sono disperati per quel gol. È un colpo di magia, è chiaro che insomma tutti noi che cerchiamo di, noi che consideriamo il calcio un'arte, al netto di tutte le brutture, lo consideriamo come una firma d'artista. No, vi posso sottolineare una cosa che vi siete dimenticati? Prego. Che fu ancora più importante, anche se molto più semplice, un altro colpo di tacco. Siamo qui apposta. Sampdoria e Juventus, l'anno dei 51 punti, l'1-0, tiro di Tardelli in diagonale, che sarebbe andato fuori, io ero di corsa in un tacco molto meno bello e delicato, ma di nuovo la deviai di tacco verso la porta. E quello fu l'anno dei 51 punti, fu un gol decisivo. Poi fece gol anche Bonimba, vincemmo 2-0, ma fu più importante di quello fatto a Milano, ve lo posso assicurare, almeno per me, per la Juve, per noi come annata, ecco. Ma evidentemente chissà perché mi tiravano sempre, non me la passavano bene i miei compagni, allora dovevo adattarmi a fare dei colpi di tacco per fare gol. È diventato un rimprovero. Si fa quel che si può. Ma dopo Bettega, chi è stato l'artista del colpo di tacco? Io confesso, questa mattina ho fatto un po' di ricerca, ho trovato Del Piero, 3-4 colpi di tacco anche celebri, Gianfranco Zola, Roberto Mancini, Socrates, lasciamo stare Maggeri, il tacco da là. C'è stato Ibra, c'è anche Ibra che ha fatto un paio di gol. Chi è l'artista del colpo di tacco? Allora, no, a me non, chi mi conosce sa che non sono presuntuoso, però lei ha citato tutti i nomi venuti molto dopo quel famoso 71. E quindi quando ho detto che dovevo depositare il brevetto, lei mi ha fatto un assist per dire che allora quella cosa, perché quello che gli ho detto io, uno fu nel 71, quello del 76. Nel 76-77 fu il campionato dei 51 punti, poi lei ha citato quello del 78 contro il Deportivo Italiano. Quindi tutti quelli che lei mi ha detto mi sa che non giocavano ancora. Magari non era nemmeno nato. Come Pier, del resto, Pier. Appunto. Quindi no, mi fa piacere che l'abbiate ricordato, ma non voglio esagerare. È stato molto bello. L'unica cosa che posso dire da juventino è che quel gol, più che bello, convinse noi della Juve, noi ragazzi della Juve, che eravamo una squadra forte, e difatti quell'anno arrivò il nostro primo scudetto. Quella vittoria a San Siro, non tanto poi perché il colpo di tacco fu una componente, ma fu quella che ci convinse che eravamo una squadra da competizione. Ecco. Roberto, nel pantheon della storia bianconera, questa Juve qui, che insomma dal punto di vista dei record è la numero uno di sempre, insomma, no? A leggere i numeri del campionato, ma che è uscita in Europa, che posto occupa? Ma allora è un po' come il discorso dei tacchi, o come il discorso di quando uno vuole affrontare se è più bravo Pelé, Maradona o Messi o Cristiano Ronaldo. Non esiste una possibilità di raffronto, perché in 40 anni, 30 anni, 20 anni è cambiato il modo di giocare, è cambiata la parte atletica, è cambiata la forma fisica, sono cambiate tantissime cose, quindi bisogna prendere quello che una squadra ha fatto, pesarlo sul periodo, nel periodo in cui l'ha fatto, in cui non esistono, non possono esistere dei raffronti, a mio parere, perché è vero che se guardi le nostre partite vedi sicuramente un ritmo diverso, ma se fossimo nati 30 anni dopo giocheremmo con questi ritmi, perché saremmo nati già diversi, perché i bambini nascono meglio adesso, e perché ci saremmo allenati in maniera diversa, e lo stesso discorso vale a viceversa, cioè per quelli che giocano adesso. Quindi uno deve prendere la squadra per quello che ha fatto in quel periodo e valutare in quel periodo. Non si può fare dei raffronti a distanza di 30 anni, di 20 anni o di 40 anni. Di sicuro la Juve di Conte sta facendo dei numeri incredibili, soprattutto considerando da dove è partita, cioè ricordiamo sempre da dove è partito Antonio Conte, da quel settimo posto, settimo posto, la Juventus aveva le macerie, evidentemente anche da quelle macerie si poteva costruire. Grazie Roberto Bettega. Prego, grazie a voi, buon Roberto, auguri. Well, I mean, derby is always a tough game, right? And then we have to respect what AC Milan giving the best. I mean, they're very hustle, they fight the game, but at the end Inter won, and then Palacio goal, I think one of the best goal of the year. I think I have to thank you with the coach, the players and the supporters who fill up the stadium. I think they are the real hero. Dobbiamo abituarci, siamo passati dai popolari di Moratti all'inglese di Toir per commentare un derby. L'Inter avrà pure vinto contro il Milan, ma non andrà lontano visto la qualità del gioco dei giocatori, scrive un amico, 349-238-6666. Io questa mattina ci sono rimasto male leggendo 144 passaggi sbagliati, 248 palloni persi, dati ufficiali della gara di ieri sera, derby di rara bruttezza dal punto di vista tecnico e tattico, però caro Pierre, almeno dal punto di vista emozionale, un derby che ha significato qualcosa. Poi ancora c'è chi ricorda il tacco di Mancini in Roma-Lazio, derby del 2003, oppure da tifoso della Cremonese mi ricordo come mi bruciò il gol in rovesciata di Vialli allo Zini, però segnato con la maglia della Juventus. E poi ancora il tacco assist di Bettega Rossi nel mondiale in Argentina del 1978. Poi c'è chi ci chiede cosa ne pensiamo dei bu della curva dell'Inter ieri sera. Pensiamo che siamo in attesa di sapere che cosa scriverà Tosel nel dispositivo del giudice sportivo, che è atteso anche a minuti o comunque questo pomeriggio. Andrea dalla provincia di Grosseto, 800 24 00 24. Andrea, buon pomeriggio. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. Da una domanda. Dica. Volevo un vostro parere sulla pazienza di Allegri in questo momento, perché secondo me la propria pazienza sta dove sta. Sì. E poi che ne pensate del Toro, dove può arrivare? Io penso che il Toro, Andrea, mi raccomando, spegnete la radio quando intervenite, altrimenti si sente male. Penso che il Toro possa arrivare a una tranquilla sicurezza e magari chissà, però queste stagioni poi hanno alti e bassi, lo stesso discorso vale per il Verona, non è facile essere continui a questo livello per 38 domeniche. Su Allegri penso che abbia una grande pazienza, penso anche che Allegri abbia sbagliato tutto lo scorso mese di maggio, avrebbe fatto meglio ad accettare la corte della Roma, avrebbe fatto meglio probabilmente a considerare chiusa la sua esperienza nel Milan, non l'ha fatto, aveva tutte le ragioni di farlo, però evidentemente questa è una stagione che è nata male e che sarebbe stata una stagione difficile per lui, delegittimato dalle scelte della società, era abbastanza chiaro anche in estate. Fabrizio dalla provincia di La Spezia. Auguri, scusa. Fabrizio, pronto? Prego. Pronto? È in onda. Ciao ragazzi, no niente, volevo intanto ringraziare tutta la D24, io sono un trasportatore tutti i giorni, vi ascolto tutti quanti, dall'inizio fino alla sera. E poi per voi volevo intervenire sul fatto del derby, perché io ho assistito a quel gol di Bettega. Sì. Io sono milanista, è stato un grandissimo dolore, ma un gesto sportivo bellissimo, ancora adesso, dopo 40 anni, lo ricordo perfettamente. Io ero proprio dietro a Cudicini. Ho visto quella palla sfiorata da quel tacco, la palla entrare, ho sentito quel grande boato di San Siro che in quel momento mi ha spazzato il cuore, però nello stesso tempo è stato un gesto bellissimo. Infatti con la Juve è stata una strada, una squadra poi eccezionale negli anni a venire, in effetti erano veramente forti. No, io volevo solo comunicarvi questa cosa. Insomma è ancora un'emozione, sono passati, abbiamo detto 42 anni, eppure ancora si ricorda quel colpo di tacco. Ieri visto quello di Palacio, io li ho trovati davvero identici. Due fotocopie, e per questo abbiamo scelto di partire con Roberto Bettega. Grazie Fabrizio. Pier, ti do una notizia. Eccoci. Dell'ultima ora. Petkovic praticamente dimesso dalla Lazio, al suo posto arriva Edi Reia per 6 mesi e poi il futuro sarà probabilmente Yakin. Io credo, epilogo scontato, anche dopo quello che abbiamo visto ieri. Sì, beh, la sconfitta di ieri è una di quelle sconfitte che valgono... che valgono di più in negativo, nel senso che è una di quelle partite nelle quali hai proprio la sensazione che la squadra abbia staccato la spina mentalmente. La classifica della Lazio è una classifica alla fine deludente, ma non così drammatica, nel senso che insomma è in quel gruppo di squadra a quota 20 è davanti al Milan, adesso non è per mettere il dito nella piaga sui tifosi del Milan, ma insomma è una classifica tranquilla secondo me. Però certamente non è la stagione che ci si aspettava e quindi credo che sia fosse qualcosa di necessario. Poi si può discutere ovviamente perché è chiaro che non è soltanto, non può essere soltanto colpa dell'allenatore, no, però quando una squadra ha 13 punti meno dalla passata stagione qualche domanda bisogna farsela, come è il caso del Lazio. Ma te lo ricordi quando Lotito parlava di Petkovic così? Abbiamo apprezzato subito cose diverse di questo uomo che lo connotavano. Ad esempio la grande moralità, è una persona che aveva lavorato anche alla Caritas, che parlava un poliglotta, che aveva una grande personalità. Sa quello che vuole, ha un alto tasso di moralità, è una persona che ha lavorato anche alla Caritas per darvi la dimensione dell'uomo, è una persona che lavora ed è sensibile alle innovazioni tecnologiche applicandole praticamente nel sistema di formazione della squadra, quindi è una persona che aveva tutti gli ingredienti per poter diventare l'allenatore della Lazio. Questo era Lotito epico. Lotito di pochi minuti fa: serve una scossa, sto valutando, in questi giorni incontrerò Petkovic, però è ovvio che non possiamo andare avanti così, l'esonero non è ancora ufficiale, però ci sono tutti i presupposti. A proposito di notizie che ci lascia in eredità questa domenica, c'è anche l'Inter che pare, Pierre, aver cambiato idea su Guarin. Questa mattina il direttore generale Fassone è un campione, ce lo teniamo stretto anche se offerte sul mercato. Dici che hanno cambiato idea dopo il derby, dopo la partita di Napoli? Ecco, io penso che Guarin chiaramente sia un giocatore importante, un giocatore che può servire soltanto per fare cassa. La sensazione è che Tohir non voglia fare un mercato con un surplus di spese, insomma, in pratica una minusvalenza qui a gennaio, quindi è soltanto in quel senso secondo me si potrebbe spiegare una cessione di Guarin. Se ci ripensano, se ne fanno bene, perché insomma mi sembra una delle poche certezze che in questo momento ha l'Inter, o comunque insomma un giocatore da non buttare via. E capisco anche il punto di vista dei tifosi che insomma difficilmente possono capire questo tipo di operazione, magari la possono capire dopo, insomma, cioè, se arriva un grande centrocampista e poi vendi Guarin ci puoi stare, ma che sia il primo, anche dal punto di vista mediatico, che sia il primo atto concreto della gestione Tohir mi sembrerebbe veramente... Sì, non è un grande inizio. Ecco, non è un grande biglietto alla visita. No, insomma. Assolutamente. Raffaele da Bologna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, auguri di buon Natale a tutti. Prego. Volevo solo fare una piccola provocazione al signor Bettega. Sì. Grandissimo campione, nessun tipo di problema, però il solito borioso secondo me. Ma perché? Si leva sempre sopra gli altri. Io non credo che ci sia una grandissima differenza dal gol che ha fatto. Premetto, io non sono un tifoso di calcio, ma di pallanuoto, che è tutta un'altra cosa. Però lo seguo e mi piace, perché come sport lo seguo, ecco. Però non credo che il gol di Mancini fatto con la Sampdoria, quel colpo di tacco che per io ce l'ho ancora davanti agli occhi, oppure quello di Ibrahimovic che ci ha buttato fuori dagli europei, ecco. Volevo solo fare. Ma sì, ma ogni artista, Raffaele, è legato alla propria opera d'arte. Bette, sì, che è stato, però lui si eleva probabilmente il primo a farli in sequenza e quindi rivendica una sorta di copyright. Io però posso dire una cosa, però, adesso, senza nulla togliere, Pierre, perché appunto il copyright è tutto di Bette. Io credo che ci siano state due categorie di colpi di tacco, tutte e due bellissime, il colpo di genio c'è in tutti e due i casi. Una categoria è quella del colpo di tacco alla Bettega e anche di Palacio ieri, no? Colpo di tacco a rasoterra col pallone che ti arriva dove chiaramente la genialità è nel pensiero. E poi ci sono stati dei colpi di tacco acrobatici, cioè mi viene in mente quello di Mancini in Parma-Lazio, che è un'altra cosa, insomma, come livello di difficoltà, lo dico. Cioè non è che Bettega o Palacio si devono dispiacere, o quello di Ibrahimovic in Italia-Svezia, ai noi. Cioè ci sono. Sono due categorie diverse, insomma. Alcuni colpi di tacco hanno unito all'elemento del tacco l'elemento proprio acrobatico. cosa che lì non c'era, ma insomma, non è che c'è anche chi ci ricorda la terra. Se il pallone era la sua terra, era la sua terra, insomma, non è che, sì, non è che è colpa di Bettec o di Palacio, ecco. C'è chi ci ricorda un tacco memorabile di De Vittis con il Piacenza, io non lo ricordo, 349-238-6666, un doppio tacco di Del Piero contro il Torino in un derby, sì, sì, sì. Di Del Piero ricordo anche un colpo di tacco in finale di Champions League contro il Borussia Dortmund 1997, certo. In quel caso non fortunatissimo. Intanto vola la Juve e quando riprenderemo il 5 gennaio c'è Juve-Roma. Senti Garcia ieri. Il mio gruppo, la mia rosa, ha tanta voglia di fare bene, che loro sanno che non solo c'è una partita alla Juve il 5 di gennaio, ma c'è anche tre partite da fila con la Coppa Italia prima del Genova e così vedremo, ma la classifica quando la guardiamo dalla voglia di giocare ancora domani forse allora tutto va bene per noi per il momento. L'hai sentito Garcia? Giocherei anche domani. Beh, ha ragione. Ha ragionissimo. Ha ragione e devo dire che la Roma si porta dietro questa piccola frustrazione di avere 41 punti, di non aver mai perso e di rendersi conto che è seconda e difficilmente ha delle possibilità di vittare lo scudetto, poi magari invece succederà, Però insomma è veramente un paradosso, anzi diciamo è proprio una sfiga per la Roma questa, perché con 41 punti dopo 17 giornate in un mondo normale sei in testa alla classifica con la sigaretta in bocca, ecco, e qui invece mi sembra che la situazione sia molto diversa. Detto questo, non bisogna sminuire quello che sta facendo la squadra, che secondo me è il premio della critica per distacco di questa prima parte del campionato, perché insomma la Juve la conoscevamo e si sta confermando e complimenti alla Juve, ma la Roma veramente ha ricostruito dalle macerie tecniche e psicologiche soprattutto del finale di stagione passata e sta facendo un lavoro eccezionale e oltretutto mi sembra che abbia una squadra anche in prospettiva molto interessante. Benatia per Marquinhos più tanti soldi è, non lo so, è premio Oscar del mercato 2013 ad oggi per me. Claudio da Milano, 800 24 00 24. Claudio, grazie per la convocazione e intanto buon Natale a tutti. Volevo anche dire lei, due, prego, cose velocissime. Una su Guarin. Io che seguo l'Inter da tanto tempo, sinceramente non capisco quelli che ritengono Guarin un campione. Secondo me non è un campione, è un buon giocatore, per carità, ma dire che Guarin è un campione, no, non sono d'accordo. E se va al Chelsea lo accompagno io se vuole. Sì, ma i tifosi dell'Inter accompagnarono anche Roberto Carlos a Madrid perché non faceva bene la fase difensiva, Pier. No, Roberto Carlos l'ha accompagnato Oxon e su Oxon è meglio che non parlo. Perché... Sì, ma ricordo bene che non faceva la fase difensiva, lo diceva anche mezza San Siro. Secondo me, Pier, poi Claudio la faccio concludere. Cioè, il problema è che io non so quanti dei 22 visti in campo ieri sera siano potenzialmente più forti di Guarin, metto dentro anche i milanisti. Sì, io penso che Guarin sia, non sono d'accordo con cioè, non sarà un fuoriclasse, un pallone d'oro, però sicuramente non è un fuoriclasse, è un buon giocatore. È un buon giocatore che in questo momento, secondo me, in un Inter solida ma non particolarmente di qualità, non ti dico che è imprescindibile, ripeto, ma per me Guarin può essere venduto e quella cifra lì, se il Chelsea la può spendere, forse è anche giusto che si dia al giocatore. Dal punto di vista della comunicazione, non è facile cominciare da lì, ecco. Se l'Inter prende, faccio per dirti, Nainggolan è un attaccante, cioè prende due grandi giocatori e poi vende Guarin, a quel punto non se ne accorge nessuno, ma che sia la prima mossa, insomma, non mi sembra una grande furbata, però poi uno può anche fregarsene, cioè può essere anche in grado di fronteggiare qualche giorno di mugugni da parte dei tifosi e poi tranquillamente andare, diciamo, oltre una grande squadra. Pier, il tacco di Allah di Magher, finale Magher, dei Coppa Campioni vinta dal Porto per 1-0, Max da Udine. Poi ti lascio con questo messaggio: 349-238-6666. Rolando Bianchi, 5 anni fa a Napoli, tacco gol, ma come al solito dovete omaggiare i Gobbi e il socio di Moggi e Giraudo. Ma questo SMS, ma no, non lo leggerete di certo. Borsa. No, lo leggiamo, anzi stasera in Tiki-Taka alle 23:20 stasera Italia Uno Tiki-Taka c'è un Natale in casa Cerci. Ma insomma, il settimo posto del Torino è una storia romantica e adesso non lo dico perché chiama tu il Torino, perché è la verità, sta facendo un campionato bellissimo. Torino e Verona sono le due grandi sorprese e vanno omaggiate, ma insomma, questo discorso qui è... Passiamo oltre, dai. Qualche altro colpo di tacco che ci viene segnalato dagli amici al 349-238-6666, Rivaldo alla prima, poi annullato con il Milan, Nicolò dall'Aquila, poi Ramirez contro la Fiorentina su assist di Di Vaio, e ancora Salvatore da Milano che scrive: io ricordo un colpo di tacco di Zamorano contro il Napoli. Poi Stefano su Twitter: chiocciola tutti convocati all'asilo, lanciavo la palla contro il muro, simulavo il cross e facevo il gol di tacco di Bettega. E poi ancora ci segnalano, caro Pier, un Del Piero in Juventus Siena di qualche anno fa, tacco sì, strepitoso. Ma ne hanno fatti tanti di colpi di tacco, a ricordarne uno, come vedi i nostri ascoltatori ci aiutano. Sandro da Mantova, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e auguri a tutti. Auguri anche a lei, prego. Volevo segnalare che ieri ho guardato la partita, io sono un tifoso juventino, ho guardato la partita Atalanta-Juventus e vorrei vedere adesso i giudici cosa diranno, perché se ascoltate la registrazione, all'inizio della partita sentivo chiaramente parolacce contro la Juve. Se hanno punito i bambini, le curve della Juventus, perché i bambini hanno detto la parolaccia, adesso tutte le partite c'è da punire qualcuno, qualche curva, perché le parolacce ci sono sempre state, sono sempre esistite e ci saranno sempre. Credo non accadrà, Sandro, credo non accadrà. Quella cosa là di Tosel è stato un segno anche per dar dietro, penso, all'indignazione che aveva suscitato sui media. Però una cosa incomprensibile. È stato un errore, perché quando si crea un precedente poi ovviamente si crea anche l'aspettativa, e non si possono dare multe tutte le domeniche per ogni parolaccia che c'è in uno stadio, Pier. Posso dire una cosa, con tutto il rispetto per Tosel, mi sembra che si sia entrati in un po' di confusione, lo dico proprio, non è facile l'applicazione di queste norme, non è facile, ti arrivano relazioni, gli assistenti che delle volte sentono, delle volte non sentono, ma secondo me sei un po' incartato, ecco, il giudice sportivo si è un po' incartato su queste cose qui. È chiaro, l'ho detto per la centesima volta, lo ribadisco, non è bello sentire i bambini che dicono quella parola lì, sicuramente non è bello, però se tu fai un precedente di questo tipo, qualsiasi partita nella quale un rinvio del portiere si dice una parola che comincia con la M e finisce per erda, a quel punto devi punire. Così come secondo me lo stesso problema sta succedendo adesso sulla chiusura delle curve, insomma. Io ribadisco il principio, mi sembra assurdo in quest'epoca qui della tecnologia, dei biglietti nominali, della tessera del tifoso, dei microchip, che noi non riusciamo a identificare, non dico chi ha fatto i bull razzisti, ma almeno chi era nel settore in una partita in trasferta, e punire quelli, squalificare quelli, non chi sta a casa, magari è abbonato, ha pagato il biglietto della partita e ha rischiato di non vedere il derby o di non vedere Roma-Catania per delle cose commesse da altre persone. La responsabilità oggettiva deve avere dei limiti, non ci può essere, questo è un diritto del consumatore, del cliente, che ovviamente è un tifoso, e non lo si può ledere così tanto, dai. Luigi da Catania. Sì, buongiorno. Buon pomeriggio. Premesso, tanti auguri di buon Natale a tutti voi. Sono interista e sono oggi incazzatissimo, direi Terciano. Si figuri milanisti. Esattamente. Io posso maggiori motivi e ve li spiego. Ho assistito al Bayern Monaco campione del mondo. L'Inter 3 anni fa era campione del mondo, era in finale, ha vinto la Coppa dei Campioni. Inviterei tutti i veri tifosi interisti a guardare qual è stato il percorso di questa società, e ne approfitto per ringraziare i nostri illuminati dirigenti, nei 3 anni successivi alla notte di Madrid. Hanno avuto la capacità di dissipare il massimo in termini di immagine, di visibilità e di quant'altro José Mourinho aveva permesso di conquistare in pochissimo tempo. Il Bayern Monaco è tuttora lì, ha disputato una finale di Coppa dei Campioni, l'ha persa, una l'ha vinta, l'altro ieri è diventato campione del mondo. Ecco, è l'esempio più semplice, sì, per spiegare sa qual è la differenza dei dirigenti e la capacità di altri. Sa qual è la differenza, Luigi, secondo me, tra quell'Inter e questo Bayern di Monaco? Quell'Inter era la fine di un progetto anche finanziario insostenibile, quel Bayern di Monaco che poi è diventato questo era semplicemente in una fase di passaggio, Pier, e all'interno di un contesto profondamente diverso. Qui siamo alla radio del Sole 24 Ore, però mi sembra sia il caso anche di sottolineare la differenza che esiste in questo momento tra l'economia tedesca e l'economia italiana, al di là dei guai del nostro calcio. Sì, poi diciamo che dal punto di vista calcistico lo spread, dal punto di vista organizzativo, dico, è ancora superiore, perché basti fare un paragone fra gli stadi tedeschi, molti dei quali ristrutturati per il Mondiale del 2006, e gli stadi italiani, che comunque nel 90 teoricamente bisognava costruire nuovi o rimettere a posto, e insomma la differenza è enorme, una differenza organizzativa, una differenza culturale prima ancora che tecnica, nel senso che poi tecnicamente te la puoi anche giocare Bayern a parte. Ma Moratti, lo stesso Moratti l'ha sottolineato quando ha fatto capire che avrebbe ceduto la società a Tohir, la maggioranza a Tohir, che il 2010 è stata una grande occasione persa, un po' per gratitudine probabilmente, perché non se l'è sentita di fare un repulisti che a quel punto sarebbe stato veramente lungimirante, non era facile farlo in quel momento, un po' per affetto nei confronti dei giocatori, un po' perché forse i tifosi non avrebbero capito, però credo che quella sia stata veramente una grande occasione persa, e l'ha riconosciuto lo stesso Moratti. Il 2010 è stata una meravigliosa impresa isolata dell'Inter, non è diventata un trampolino di lancio per poter crescere negli anni successivi. Intanto ci ricordano il tacco di Locatelli in Udinese Vizev Lodz, Coppa UEFA 1997, meraviglioso e speculare, ma di sinistro a quello di ieri sera, e poi Di Natale contro la Roma 2 anni fa, e poi Zola contro non so quale partita comunque della Premier League, con la maglia del Chelsea. Alessandra Bocci, buon pomeriggio. Oh, Boccina, ciao, come state? Bene. Allegri come sta? Sta a posto, benissimo. Cioè, insomma, tanto è un periodo che va così, quindi non credo che il derby perso 1-0 abbia peggiorato il suo umore, insomma, non, secondo me è un'annata un po' disgraziata per tutto il Milan, e ha trovato una squadra che ha avuto più voglia, più gambe, più fisico nel finale, insomma è arrivata anche questa sconfitta, che arriva insomma alla fine, è stata una partita diciamo piuttosto equilibrata per gran parte della partita medesima, ma se ci pensate bene la stessa cosa era accaduta contro la Juventus, poi alla fine il Milan ha perso con un rigore abbastanza sciocco, quindi insomma diciamo che tutta una serie di occasioni di questa stagione spiegano in parte questa situazione di classifica grama, però adesso insomma poi vediamo l'anno prossimo, cambierà allenatore, quindi cambierà tutto, ma non solo cambierà allenatore. Sai, Pier, c'è chi ha scritto al 3492386666, Allegri sembra disinteressato a quanto sta succedendo al Milan, tanto lui guadagna, che cosa ne pensate? Secondo me non è vera nessuna delle due parti di questa frase. Però non commento nemmeno, credo che un allenatore non possa mai comportarsi in questo modo, anche perché non dimentichiamoci che proprio in maniera, parlando proprio cinicamente, in maniera molto pratica, diciamo addirittura prosaica, un'annata che finisce male lascia magari un segno anche nella carriera dell'allenatore e magari nelle opportunità che l'allenatore può avere per il futuro. Ricordo che questo è un allenatore che aveva delle grandi opportunità all'inizio dell'anno, alla fine della stagione passata, che non le ha colte, è rimasto al Milan, quindi sinceramente adesso pensare di definirlo come uno disinteressato semplicemente perché guadagna mi sembra francamente fantastico. Anche perché credo che Allegri possa pensare di essere il prossimo commissario tecnico della nazionale, è certamente uno dei candidati. Come si fa ad accettare di fare una stagione così semplicemente perché si incassa lo stipendio? Assolutamente non sta in piedi. No, ma ripeto, anche perché lo stipendio l'avrebbe incassato altrove, magari facendo anche meglio la figura in campo. Questo vorrei capire, perché tu insomma lo conosci molto bene, sei amica, possiamo dirlo, insomma ho un ottimo rapporto. Ti è pentito? Perché insomma era la prima scelta della Roma. No, non può essersi pentito, lui è rimasto per una serie di circostanze, credo che tutto sommato sia andata bene a tutti, cioè a lui magari no, alla Roma sicuramente sì, vista la posizione in classifica, e al Milan, l'obiettivo del Milan era tirare l'anno diciamo così fino all'arrivo provvidenziale e messianico di Clarence Seedorf, e quindi insomma alla fine mi sembra che il risultato, adesso bisogna vedere, perché bisogna vedere cosa succede, ma io non sono così convinta che in ogni caso la stagione possa finire, mi auguro per Allegri, ma anche per i tifosi, perché insomma un cambio di allenatore adesso non sarebbe secondo me molto indicato, e soprattutto non sarebbe indicato per il lavoro del nuovo allenatore, perciò credo che sia meglio per tutti a questo punto arrivare in fondo alla stagione, ricordando che il Milan viene da un primo, secondo, terzo posto e che tutte le squadre del mondo hanno dei momenti di down. L'ultimo momento veramente down del Milan risale al biennio 96-98 con Sacchi e Capello, e poi ci sono stati dei momenti, diciamo, non felicissimi anche con Ancelotti, che aveva uno squadrone rispetto al Milan di adesso e che, insomma, gli è capitato anche di andare in Coppa UEFA, però nonostante tutto, insomma, sono sempre state stagioni dal punto di vista dei risultati dignitose. Quindi questa stagione arriva a 15 anni mi pare di distanza dall'ultima pessima. E quindi io capisco, i tifosi sono tifosi, non è che ci si può aspettare che siano contenti, però ripeto, l'Inter l'anno scorso è arrivata nona, non mi pare che avesse fatto la stessa Roma, la stessa Roma ha fatto Roma, un cambio notevole. Però la Roma non ha proprio, diciamo, nelle ultime stagioni non mi pare che abbia vinto scudetti a raffica, quindi sinceramente io, per carità, rispetto tutti i tifosi, io sono notoriamente neutrale a parte Livorno, per il quale, insomma, perdo un po' il lume della ragione, quindi mi chiedo soltanto come si possa dimenticare che comunque è un'annataccia, ci può stare, c'è stato un po' di mercato sbagliato, c'è stato qualche sicuramente errori degli allenatori, ci sono dell'allenatore, c'è stato magari qualche errore, diciamo, dovuto alla mancanza di concentrazione, diciamo così, di qualche giocatore. Ci sono stati tanti casini in società che adesso nessuno lo dice, perché tutti dicono no, ma noi siamo impermeabili, ma insomma, no, ma non pesano, credo che pesano. Ecco, un pochino forse hanno io non so se qualcuno di voi ha avuto modo di sentire Boban ieri nel dopo partita Sky, la sua analisi su quello che è successo al Milan negli ultimi mesi. Credo che Boban non lavorerà al Milan mai, probabilmente, se qualcuno l'ha sentito. Cantarutti in Atalanta Udinese 1-0, Mauro da Bergamo, colpo di tacco, te lo ricordi, Pierre? No, anche Rossini, Cantarutti, Livorno-Frosinone. Sì, assolutamente, anche Rossini, Livorno-Frosinone, ce lo segnala un amico su Twitter. Ivan Grosny. Grande, salutiamo. Ivan Grosny, padovano, classico nome e cognome padovano, soprattutto Grosny. Poi uno che si ricorda amico Rossini di Parenzo, in Livorno-Fiorentina, merita. Il signor Parenzo, ecco. Poi c'è chi ci segnala, a proposito di padovani, Mauro da Padova, il tacco della Canalis ieri sera saltellante dopo il gol dell'Inter, imperdibile spettacolo. Stasera l'avremo anche in tiki-taka dopo Zelic, quindi insomma se cominciamo a parlare di tacchi, la cosa, l'argomento si fa serio, diciamo che andiamo su un altro livello. Alessandra, per chiudere, oggi scrivi: 2014 è già un altro Milan, Rami, Onda, Pazzini e poi chissà che cosa regala il mercato. Secondo te sono scelte, quelle già fatte, che possono cambiare faccia a questo Milan? Ma non lo so, sì, magari sì, ma comunque non possono cambiare la classifica, insomma. Io credo che oggettivamente il Milan non possa aspirare a più di un quinto o sesto posto, che forse, vista la condizione poi di cambiamento totale dell'anno prossimo, forse sarebbe anche scomodo, perché io non sono molto d'accordo, perché credo che i club italiani debbano prendere coscienza del fatto che l'unica coppa che possono vincere è l'Europa League, e quindi credo che a questa coppa si debba dare importanza. Però sento tanti discorsi in base ai quali conviene certe volte avere, diciamo, le mani libere durante la settimana, i piedi liberi per organizzarsi meglio per il futuro. Quindi provincialismo, questo... Boccina. Cosa? Provincialismo, dai. Lo so, ma io onestamente, poi ripeto, a parte il Milan che c'ha un super palmarès, a parte l'Inter che ha fatto il triplete qualche anno fa, la Juve comunque due coppe le ha vinte, però insomma gli altri club italiani non mi sembra che ci abbiano le bacheche strapiene, quindi non capisco perché si debba essere così una coppa che è stata vinta l'anno scorso dal Chelsea. Ma io li aspetto tutti al varco questa primavera. Noi abbiamo la Juventus, abbiamo il Napoli in Europa League, abbiamo la Fiorentina, vediamo come vanno. Mi auguro che ci sia un cambio di minimo cambio di cultura in questo senso, perché in ogni caso ricordiamoci che se il Milan non ha, se l'Italia non ha più quattro squadre, è colpa dell'Europa League. Esattamente, perché non è che la Germania abbia fatto tutti questi punti vincendo Champions a pacchi, quindi forse bisognerebbe un pochino coltivare di più anche questa idea, per cui tutto sommato, per tornare a bomba, per il Milan potrebbe anche essere una bella cosa l'anno prossimo fare l'Europa League. Non so se gli innesti basteranno, certamente Onda è un giocatore di qualità, non è un top player ma un giocatore di qualità, è un tipo di giocatore che al momento non c'è molto nella rosa del Milan, perché è vero che ci sono dei trequartisti, però ecco, Kakà sinceramente non è che proprio abbia mai fatto trequartista di mestiere, e Saponara è molto giovane, quindi secondo me può dare una mano, considerando anche il fatto che può fare pure la mezzala di qualità. Gli altri, Rami comunque un buon difensore, mi pare che per ora il miglior acquisto della difesa sia stato il ritorno di Bonera, e io insisto, il più grande acquisto del Milan del 2014 sarà Pazzini. Sì, credo che anche Allegri lo stia aspettando. Grazie Alessandra. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Auguri Boccina. Grazie ad Alessandra Bocci. 800 24 00 24. Ah, ma gli aspetto questa primavera tutti i professori del ranking, perché se quest'anno non proviamo ad andare in fondo all'Europa League, caro Pierpardo, poi dopo che ci evitino le prediche sul ranking europeo, eccetera eccetera eccetera. Andrea da Udine, buon pomeriggio. Salve, buongiorno a tutti. Volevo dire tre cose veloci. Allora, la prima, io sono un po' più giovane forse, quindi mi ricordo un tacco che magari non è uguale a quello di Palacio, ma era il maestro per me di quei tacchi lì, era Hernán Crespo, che ne ha fatti diversi. Sì, anche Crespo in quel modo lì. Lo mettiamo nella galleria insieme a Nick Zanini, 19 dicembre 2004 in Genoa Empoli 3-2, Lorenzo da Genova. Prego Andrea. Ok, e poi altre due cose. Avevo chiamato per parlare di Guarin, so che non le farà piacere, ma prima ho sentito che parlavate di Allegri e che molti lo danno già per scontato sulla panchina della nazionale. Io sono interista e non posso dirmi triste per il momento che sta passando il Milan, ovviamente, adesso. Però non credo si possa imputare nulla ad Allegri, che è un allenatore secondo me onesto, non sarà un fenomeno, ma il problema del Milan in questo momento è che al Milan serve un allenatore che abbia un carattere che secondo me Allegri non ha, nel senso che tatticamente sarà bravo, non lo metto in dubbio, ma in questo momento credo che, da interista lo posso dire, serve una svolta proprio a livello di carattere, perché anche ieri sera ero allo stadio e vedo una squadra che proprio Però, non ce la fa. Sì, però una squadra che per un'ora ha messo sotto l'Inter, Andrea. Sia la scelta migliore per la nazionale, così come non l'è stata Donadoni, che è stato bruciato, secondo me, quando è salito su quella panchina lì. No, ma Andrea, però grazie. Intanto il Milan ieri per un'oretta ha messo sotto l'Inter, poi dopo credo che la differenza Pier l'abbia fatta la tenuta fisica. Mi è sembrato negli ultimi 20 minuti il Milan ha scoppiato completamente e a quel punto l'Inter è uscita. Io credo che la colpa di Allegri in questa stagione sia stata a maggio aver accettato di rimanere. Quando si riparte con questi rapporti di forza all'interno di una società, se poi una società è una grande società, è difficile restare in piedi. Sì, no, assolutamente. Io credo che Allegri si sia mille volte pentito di quella scelta, che in qualche modo è vero, ha ragione Alessandra, è una scelta che è stata indotta dalle circostanze, insomma, ci fu una grande ricucitura, un grande lavoro diplomatico, vero, da parte di Galliani, che in assoluta buona fede era convinto che quella fosse la cosa migliore da fare, e aveva, non bisogna dimenticarlo, buona parte della squadra che la pensava come lui, per cui, insomma, io credo che si debba ricordare quello che è successo in quel periodo lì. In quel periodo lì sicuramente sembrò un gran colpo per il Milan e una pessima notizia per la Roma, quella conferma. E invece sappiamo com'è andata. Io credo che in generale nel calcio italiano le conferme mezze non vadano mai bene. Gli allenatori che si sa che però non sono completamente graditi e che non hanno il 100% della fiducia da parte dei dirigenti e del presidente, in questo caso fanno una brutta fine. E poi ci sono i problemi tecnici che esistono. Io credo che oggi non abbiamo ancora pronunciato il nome di Balotelli, insomma, sinceramente io credo che il 2013, questa prima parte del campionato 2013 Balotelli sia veramente molto molto negativa. No, non è stato un fattore quando c'è stato il momento della difficoltà, ragazzi, tra squalifiche e infortuni, è sparito. Questo è il giocatore che ci deve far vincere il mondiale, Sì, allora, ma tu sai come la penso? Un mese fa provocatoriamente abbiamo detto però serve o no, poi ovviamente in Brasile ci andrà a prescindere. Però evidentemente è un giocatore che sta fallendo anche questa opportunità di confermarsi, di fare il salto di qualità. Domenico da Roma. Domenico. Eccoci qui. Prego. Buonasera a tutti, auguri buonasera. per un anno. Tifoso interista, anzi ormai osservatore quasi disinteressato dopo quella notte di Madrid, da quando è andato via Giuseppe, per cui sentivo della cessione di Guarin, ma avete rovinato il Natale, perché insomma io voglio dire, prima di cedere Guarin io preparerei un bel Cessna da 8 posti o un Learjet all'Inate, ci metterei dentro Rolando, Ranocchia, Taiberbe, il Fodil, Pereira, questi giocatori qui, prima di toccare uno dei tre pilastri di uno statura minima della squadra, che sono Andanovic, lui e Palacio. Per cui per me è una cosa folle, se questo è il biglietto da visita, insomma, sono d'accordo. E non mi stupisce che lo abbia richiesto il Chelsea, che è guidato dal più grande allenatore di tutti i tempi. Grazie a tutti. Grazie a lei, Pietro da Parma. Ma sì, auguri a tutti innanzitutto. Ma sono d'accordo con l'amico di prima, ma tra Guarin e Nainggolan mi tengo tutta la vita Guarin. Poi volevo fare una domanda, ma la Juventus Udinese non erano 3 punti tanto come Inter Milan? Perché la curva della Juventus è stata chiusa e quella dell'Inter no? Sì, perché quella dell'Inter probabilmente verrà chiusa a gennaio, febbraio, non so quando, perché sì, la sanzione dell'Inter, lo spieghiamo, ma credo che evidentemente qualcuno non l'ha ancora capito, non è stata cancellata, esatto. È stata semplicemente sospesa, è stata una scelta io credo più politica che altro. Lo stesso vale per la sanzione per la curva sud della Roma, che doveva essere chiusa questa domenica in casa contro il Catania. Si è detto serve un supplemento di indagini. Ho l'impressione che prima di queste nuove indagini magari queste norme saranno in parte riscritte. Ti leggo un'ultima ora del presidente Abete a proposito proprio delle curve. Dice il presidente della Federcalcio: serve un sistema sanzionatorio equilibrato, un sistema nuovo necessario anche per gli episodi che avvengono in trasferta. Eccolo qua Abete, finalmente. Quindi questo... No, ma non posso dire questa cosa qui, guarda, festeggio come se avessi segnato all'oratorio. Cioè fuori casa è un'altra cosa, cioè fuori casa devi punire quelli che sono andati in trasferta, punto. Non puoi punire a caso un settore, perché che ne sai se quelli sono abbonati a quel settore o un altro? Quindi è la differenza tecnica, è fondamentale. Sì, però non si possono cambiare, questo è il mio parere, le norme 3 volte in 3 mesi, perché capito, non sei stato capace di scriverle in maniera decente la prima volta. Però non puoi neanche impedire a della gente che non c'entra niente di non andare allo stadio, magari un biglietto che ha già pagato perché sono abbonati, perché 25 persone che magari invece che stare in curva sud sono in tribuna Tevere o sono in tribuna d'onore nelle partite in casa... Allora, magari quello che ha fischiato, quello che è andato in trasferta, che ha fischiato, che non è nella curva che verrà chiusa, la partita dopo la può vedere, e invece il povero Cristo che il biglietto l'ha pagato e che in trasferta non c'è andato si trova la curva chiusa e se ne rimane a casa. Ma è una follia. Sì, io comunque dico che la figuraccia che stiamo facendo è una figuraccia assoluta. Assoluta, cioè si è partiti da buone intenzioni con delle regole sbagliate, perché bastava leggerle quest'estate per capire che erano sbagliate. Nessuno ha voluto leggerle, nessuno l'ha capito, e quello che è successo dopo è sotto gli occhi di tutti. Salvo da Catania. Sì, salve, buongiorno. Uno sfogo più che altro, sì. Ma in ogni caso era per parlare del Milan. Io ricordo che ormai mi pare che è il terzo o quarto Natale che noi passiamo, diciamo così, avvilente, perché non ce lo fanno passare bruttissimo. Abbiamo perso tutte e tre incontri, Roma, non mi ricordo l'anno scorso. Ora io dico questo, noi siamo il club più titolato al mondo, d'accordo su tutto, però se questa squadra non la può più mantenere Berlusconi, non ci possiamo permettere di navigare nella bassa classifica. È giusto che cambi lui, perché non ha colpa a Gagliani, ma trovarlo, a trovarlo un altro. Salvo 800 24 00 24 scrive un amico al 349 238 6666 al Milan serve un top in panchina, uno come Conte, invece hanno scelto di prendere Seedorf. Sono tanti, lo sai Pier, i tifosi del Milan che conservano perplessità anche sull'ipotesi che Seedorf sia il prossimo allenatore. Ti piace? Ma tutto ciò che è nuovo è sconosciuto e porta con sé dei margini di rischio. Il rischio fa parte della vita ed è chiaro che di fronte a un esordiente il tasso di rischio può aumentare, però anche le opportunità possono aumentare. Io credo che Seedorf sia una persona molto intelligente, una persona di grande cultura, di grande internazionalità, un allenatore secondo me che ha visto da fuori, secondo me ha tutte le caratteristiche per poter essere un grande, perché per inserirsi in questa nuova gamma di allenatori che hanno un fascino, un carisma eccezionale. Quindi poi se sarà il nuovo Guardiola io questo non lo so, però è uno che parla le lingue, è un calciatore che abbiamo sempre reputato intelligentissimo, è un leader carismatico, lo è sempre stato all'interno dello spogliatoio, insomma teoricamente ha tutto, e poi ovviamente adesso bisogna capire come se ci capirà dal punto di vista tattico, se tutte queste cose qui meritano ovviamente una verifica. Però insomma sembra, sì, i presupposti possono esserci. Secondo me la mancanza d'esperienza è tanto, perché anche altre scelte fatte da Berlusconi in passato, Sacchi, Capello, comunque non arrivavano in panchina dal nulla, anche a livello di esperienza di vita all'interno della società. Però se Seedorf sarà certamente un motivo di interesse della prossima stagione. Michele da Valenza scrive invece: come si fa ad annullare un gol come quello di Calleon a Cagliari? Avessimo avuto la maglia a strisce bianconere non ce l'avrebbe avrebbero mai annullato. Secondo me era da annullare, Pier. Sì, era da annullare per qualche centimetro, quindi uno può, tifoso del Napoli, può anche pensare che, cioè, noi giudichiamo quello che è tecnicamente è un capolavoro dell'assistente. Sì, a me non piacciono le nuove interpretazioni sul fuorigioco, secondo me, ad esempio anche Nagatomo che ieri va verso il pallone e poi si ferma, non lo so, io preferivo il vecchio fuorigioco, te lo dico, però questo è quello che c'è. Quindi la chiamata dell'assistente è stata eccezionale, cioè certo, è stato un capolavoro. Corrette tutte e due. Equivale a un gol in acrobazia in rovesciata, poi se uno vuol pensare comunque male perché era veramente difficilissimo vederlo, può farlo, però insomma... io non credo che il tifoso si possa arrabbiare se il tifoso si deve arrabbiare quando gli viene tolto qualcosa. Lì, sia pure di pochissimi centimetri, quasi invisibile a occhio nudo, però il fuorigioco c'era, per cui... Sì, anche Gullit e Van Basten avevano carisma. Seedorf farà un buco nell'acqua come loro da allenatori. Andrea, ciao Pier. Ciao, ciao, ciao, ciao. Buon Natale anche a te. A voi, a tutti, stasera tiki-taka, 23:20 dalle 1, tiki-taka, c'è Brocchi tra l'altro, ciao. Ciao Pier. Ciro dalla provincia di Frosinone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, auguri, mi dispiace che Pier... L'abbiamo lasciato libero. Volevo intervenire circa le curve. Sì. Noi facciamo una fatica immane così a diventare un popolo civile. Perché la curva si chiude, la curva non si chiude, la scelta politica, 25 hanno commesso un errore, allora la curva non deve essere chiusa a tutti, facciamo troppo fatica così. Qualcuno ha sbagliato, pagano tutti, poi la prossima volta i 25 vengono isolati e a quel punto la curva rimane sempre aperta. Sì, in realtà non funziona così, perché purtroppo, per come sono scritte le nuove regole, nemmeno questo vale. Valeva fino all'anno scorso, se gli altri erano capaci di isolare i 25, 12, 200, 1000, in qualche modo scattava un attenuante. Quest'anno non è più così, secondo me è stato uno dei grandi errori all'inizio, alla radice di queste nuove regole, che hanno in un certo senso deresponsabilizzato le società e le hanno consegnate nelle mani degli ultra. Il pasticcio è stato fatto quest'estate. Il resto sono toppe che vengono messe, che secondo me sono anche peggio del buco. Lo ripeto, stiamo facendo una figura bruttissima, però è comprensibile che tutti gli altri 7.000, 8.000 che non sono quei 12 hanno ragione a sentirsi beffati dalla chiusura del settore. Marco dalla provincia di Bari, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Prego. Tutti i complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo intervenire riguardando il Milan, il fatto di Allegri. Sì. Come mai all'inizio stagione Allegri ha accettato la conferma sapendo una squadra che non è al top al momento, con tutti questi giocatori che non sono da Milan? Come mai? Credo perché sia difficile lasciare il Milan, resta comunque credo un punto altissimo della carriera di Allegri. L'anno scorso in fondo era andata bene dopo una partenza disastrosa e probabilmente Allegri contava che quest'anno i presupposti potessero comunque essere quelli di una buona stagione. Non è stato così, la sua era una panchina debole sin dall'inizio, però io credo vada rispettata la scelta di Allegri, anche se è una scelta sbagliata, ne abbiamo parlato, quasi sicuramente se ne sarà pentito. Se ne sarà pentito perché adesso a quest'ora, cioè alla fine del campionato, Allegri che squadra se lo prende? Ma Allegri, chi è nel mondo del calcio saprà giudicare nel bene e nel male quello che ha fatto Allegri, quali sono i suoi errori e qual è il contesto, quindi non credo che Allegri si rovini la carriera per questa stagione al Milan. Di sicuro poteva viverla meglio. Grazie comunque Marco. Vito da Milano. Ecco, buongiorno, sono un milanista come è ovvio. Volevo dire la verità sul Milan. Sì. Il Milan 105 milioni netti di ingaggio come squadra, al secondo posto dopo i 110 milioni della Juve. Questo è il problema. Adesso ci abbiamo anche il problema che se va via Galliani il Milan deve sborsare 50 milioni. Questo è il grave problema, che abbiamo una squadra che non vale 105 milioni netti di ingaggio e non si riesce in un anno. Questo è il problema, di aver dato 105 milioni netti di ingaggio a una rosa del genere non deriva da oggi, ma deriva da 5-6 anni a questa parte. Sì, 105 in realtà sono lordi. In realtà sono lordi, Vito. Avendo dato via gente come Ibrahimovic che guadagnava 10 milioni netti a stagione, 20 lordi, aver dato via i pezzi pregiati anche come Thiago Silva, eccetera, ci troviamo ancora con 105 milioni netti. Sì, ma guarda che sono pochi, Vito, eh? 105 è un livello quasi fisiologico per chi vuole avere un club che compete in Europa, e il Milan, fino a prova contraria, è tra le prime 16 d'Europa. Da questo punto di vista sono stati fatti grandi tagli, è lo stesso discorso che vale per l'Inter. Difficile tagliare ancora sul monte ingaggi, il problema dal punto di vista economico del bilancio è aumentare i ricavi, dal punto di vista tecnico probabilmente gestire questa fase di transizione senza commettere errori che sono stati commessi sul mercato. Mi viene in mente ad esempio Matri, che evidentemente in questa prima metà della stagione non è stato un fattore per il Milan. Francesco dalla provincia di Latina, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, innanzitutto auguri a tutti. Anche lei. Io intervengo per il Milan, anche io milanista, sì. Deluso. Volevo rimarcare due cose. Innanzitutto c'è una dirigenza allo sbando, cioè una parte di dirigenza fa qualcosa, un'altra praticamente la distrugge. Penso alla cessione di Pato e all'acquisto di Tevez, per esempio. Ma resta il fatto che questa rosa sta rendendo meno di quello che potrebbe, insomma. E anche in questo la dirigenza mi è parso che ha messo parola. Quando Allegri voleva portare Kakà in mediana, era una grandissima idea, perché una grande squadra deve avere dal basso qualità per poter verticalizzare. Questa squadra qua dal basso c'ha De Jong, che è uno stopper messo a centrocampo, insomma. Sì, manca. Quindi, la qualità in mezzo, ieri poi mancava anche Montolivo. Il Galliani ha stoppato Allegri perché dice non poteva giocare lì. Noi l'anno scorso il Milan l'ha svoltato quando ha messo Montolivo centrale, che non è Pirlo, non è Albertini, ma è uno che dal basso riusciva a far giocare un po' la squadra. Ho l'impressione però, Mirko, che il ricordo dell'anno scorso sia un po' fuorviante. L'anno scorso il Milan è riuscito in quella meravigliosa seconda parte della stagione che ha portato alla fine al terzo posto, però sono successe anche tante altre cose ed evidentemente è impossibile che le stagioni si ripetano in fotocopia, anche con la scelta eventuale di spostare Kakà dietro. In questo momento in realtà Kakà serve al Milan, serve anche là dove viene messo. Mi sembra che sia uno dei pochi fattori positivi di queste ultime settimane. Massimo da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Prego. Auguri e complimenti alla trasmissione. Dica. No, il mio commento era semplicemente sul fatto che ho sentito parlare dei fuorigioco per pochi centimetri che vanno fischiati, si sono fatti complimenti per il fuorigioco fischiato sul gol di Calleon. Sì. Ricordo che un fuorigioco più ampio, quello di Llorente all'inizio della partita Napoli-Juve, non è stato fischiato e ha falsato tutta la partita. Sì, se posso dire la mia, non è stato fischiato ed è stato un errore, poi non lo so se ha falsato la partita, però prego Massimo. No, è corretto, certo, non si può, questi sono i classici casi su cui non esiste la prova del nove, no? Però è ovvio che se la regola è che nel dubbio va lasciato correre, dovrebbe essere applicata sempre. Sì, ma il problema, Massimo, è che non c'era un dubbio a Cagliari. Pandev si fa passare il pallone sotto le gambe, addirittura alza una gamba, Pandev o Albiol, scusate, era Albiol, si trattava nel cono visivo del portiere e quindi per la regola del fuorigioco, questo è fuorigioco attivo e quindi va segnalato, non esiste un problema di interpretazione. Questo è successo a Cagliari, per questo la chiamata a Cagliari è corretta. Quello di Juventus Napoli è un errore, quello di Inter Milan di Nagatomo è quasi certamente l'interpretazione corretta, ma di sicuro Nagatomo è andato davvero a un filo, a un passo dal rendere annullabile il gol di Palacio. Mirko da Monza, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Senta, io volevo togliere da un po' da quello che era il discorso sportivo. Sì. Io premetto, sono tifoso interista e ieri sera sono rimasto veramente deluso dal vedere la curva dell'Inter piena. Sì. Il fatto che le istituzioni ancora una volta, così come a Torino, si sono trovate in ginocchio di fronte alle tifoserie. Io credo, Mirko, che l'aspetto brutto di tutta questa vicenda sia che non è stata presa una decisione, cioè bisognava avere il coraggio. L'Inter e la Roma hanno fatto ricorso e questo è assolutamente legittimo, esistevano due fattispecie particolari, io non le dirò come la penso, però secondo me c'erano gli estremi per giudicare sia il ricorso dell'Inter che il ricorso della Roma e dare una risposta, cioè non spostare il problema tra qualche settimana quando magari vi ho detto prima che cosa ha detto Abete negli scorsi minuti, le regole saranno nuovamente cambiate. Questo secondo me è stato il problema di quello che è accaduto settimana scorsa. Prego Mirko. Io quello che vedo è il fatto che dei poliziotti si tolgano i caschi di fronte ai tifosi davanti al Palazzo della Regione a Torino, che una Federcalcio si mette in ginocchio di fronte a una tifoseria. Io purtroppo quello che vedo è che magari se i Forconi si fossero vestiti da tifosi sarebbero passati come infiltrati e forse qualcosa sarebbero anche riusciti a fare. Ma insomma, qualche infiltrato c'era anche lì, però sì, adesso io non allargherei troppo il discorso. Mirko, abbiamo finito, però la ringrazio. Grazie a Franco Piantanida, autore di questa puntata, Roby Scaltritti in regia. Un saluto anche da Giovanni Capuano. Domani grande puntata, torna Carlo Genta.